495. Anguilla in umido all'uso di comacchio. I comacchesi non fanno mai uso dell'olio per condir l'anguilla in qualunque modo essa venga cucinata, il che si vede anche da questo umido che potrebbe pur chiamarsi zuppa o cacciucco di anguille. Infatti, codesto pesce contiene tanto olio in se stesso che l'aggiungerne guasta anziché giovare. La prova fattane, avendo corrisposto alla ricetta favoritami, ve la descrivo tal quale. Per 1 chilogrammo di anguille prendete 3 cipolle, 1 sedano, 1 bella carota, prezzemolo e la buccia di 1/2 limone. Tagliate tutto meno il limone a pezzi grossi e fate bollire con acqua, sale e pepe. Tagliate le anguille a rocchi, lasciando però i rocchi uniti tra loro da un lembo di carne. Prendete un pentolo adatto e fategli in fondo uno strato di anguilla, cui soprapporrete uno strato delle verdure dette di sopra e quasi cotte, gettando via il limone. Poi un altro strato d'anguilla, un altro di verdura, eccetera, finché ce ne cape. Coprite tutto con l'acqua dove le verdure bollirono. Mettete il pentolo venturato a bollire adagio, scotendolo, girandolo, ma non frugando mai col mestolo, perché spappolereste ogni cosa. Noi usiamo circondare il pentolo di cenere e brace fin più che a mezzo, davanti a un fuoco chiaro di legna, sempre scuotendo e girando. Quando i rocchi che erano uniti per un lembo si staccano l'uno dall'altro, sono pressoché cotti. Aggiungete allora un buon cucchiaio di aceto forte, conserva di pomodoro e assaggiate il brodo per correggerlo di sale e di pepe. Siate generosi. Fate dare altri piccoli bollori e mandate magari il pentolo in tavola, perché è vivanda di confidenza. Servite in piatti caldi su fette di pane. Avverto io che qui si tratta di anguille mezzane e non ispellate, che le cipolle, se sono grosse, 2 bastano e che 2 bicchieri d'acqua saranno sufficienti per cuocere le verdure. Le fette del pane sarà bene di asciugarle al fuoco senza arrostirle. 496. Anguilla coi piselli. Mettetela in umido, come quella del numero 493, e quando è cotta, levatela asciutta per cuocere i piselli nel suo intinto. Rimettetela poi fra i medesimi per riscaldarla e servitela. Qui non ha luogo sugo di pomodoro, ma acqua se occorre.